Siamo con Walter Bencini, regista del documentario Gli ultimi butteri, in distribuzione in sala dal prossimo 21 giugno. Walter, benvenuto. Sì, ciao, buongiorno, benvenuti a tutti i radioascoltatori. Noi ci eravamo già sentiti per un tuo lavoro precedente, allora lo racconti questo? Diciamo che questo film si racconta un po' con un linguaggio poetico la storia lavorativa di alcuni veri butteri mare in mare, insomma, attraverso comunque lo scorrere delle stagioni, dove traspare un modello produttivo alternativo che tutela il benessere animale, dell'ambiente e comunque anche della gente che ci lavora. La nostra storia si svolge ad Alberese, in Maremma, dove da generazioni si pratica l'allevamento bovino allo stato pralo, attraverso insomma la figura del buttero. I nostri protagonisti sono cinque e tutti comunque si portano addosso l'area del territorio che l'ha visti cresci. C'è per esempio Alessandro, che è più anziano, che è anche detto la vecchia, no? Che è il capo dei butteri, che è un uomo molto rigoroso, severo, anche permaloso. E poi c'è il capo squadra, c'è Stefano, che è l'uomo ai sussurri cavalli, detto anche Fomino. Poi c'è il taciturno Luca, detto Civetta, che è molto solitario. E poi ci sono di un giovane arrivati da poco, che aspirano a diventare dei butteri, un Giacomo che è soprannominato Crognolo, un ragazzo molto disinvolto, no? E però anche remissivo. E poi c'è Luchino, che è ripartenzato da più vecchi da Tarino, che è, diciamo, è quello più giovane, ma è quello che anche ama le regole e gli animali, e con cui comunque ha sempre lavorato fin da piccolo, insomma. E ce la faranno? Il percorso, insomma, non è facile e comunque gli anziani sono duri e severi, insomma. Sono loro che ci raccontano senza fuori sulla lingua di questo mondo duro, insomma, è complesso, è la sua vera essenza, comunque affrontando anche dal vivo momenti conviviali e conflitti. Walter, com'era nato il progetto? Ma il progetto è nato, diciamo, sulla scia di quello precedente. Ecco, se si considera comunque che negli ultimi 10 anni io, insomma, sono sempre impegnato nel promuovere, diciamo, dei mondi agricoli tradizionali, no, a rischio di Ah, visto, estinzione. sta. Quindi la realizzazione del film precedente sui pescatori della laguna è stata abbastanza naturale, può approfondire anche questo mondo. I butteri, insomma, oltre ad essere l'icona della Maremma, sono gli ultimi allevatori bovini a cavallo italiani e che comunque, come pescatori, anche loro sono depositari di un sapere antico che rischia l'estinzione. Un sapere che comunque è completamente diverso anche dalle altre realtà sparse un po' nel mondo, insomma, anche se possono sembrare simili. Come ogni cultura, anche quella, insomma, la sua personalità. Questi uomini custodi, con le loro vacche, per me sono poi alla fine i veri eroi contemporanei, no? Perché nonostante il destino incerto, poi loro comunque continuano ad esistere pur di continuare, insomma, la storia dei padri e dei nonni, insomma, della loro terra. Mi piace, insomma, un po' immaginarli anche come dei cavalieri erranti in lotta contro un sistema industriale omologante che fabbrica gli animali invece di allevarli. Quindi, se consideriamo anche la crisi che stiamo vivendo in questo momento, in cui comunque il sistema di produzione industriale di carne sta incidendo negativamente sulla vita di questo pianeta, per me, insomma, diventa fondamentale mettere in luce e promuovere dei modelli di produzione alternativi, insomma. Questa azienda poi ne è un esempio, insomma, perché comunque da generazione riesce a vivere il proprio lavoro tutelando al tempo stesso il benessere animale e l'ambiente, insomma. Cioè, la logica delle realtà locali come questa, in un mondo globalizzato fatto di cifre astronomiche, può sembrare anche insignificante e anacronistica, eppure secondo me è l'unica via percorribile se si vuole ritrovare un rapporto armonico con la nostra madre terra. Cioè, bisogna riconcepire un sistema basato sulla produzione locale. Tra l'altro anche la scienza dell'evoluzione, no, ci dice un organismo per sopravvivere deve adattarsi a livello locale, ma per persone, insomma, non si comprende l'agricoltura scientifica ha esentato l'uomo da questo requisito, no? Quindi, se vogliamo un'agricoltura sostenibile e uno stile di vita sostenibile, dobbiamo darci dei limiti che ci vengono suggeriti da ogni specifico territorio e ogni specifico azienda, no? Alla fine è una questione di buon senso. Infatti, questa azienda per mantenere, diciamo, questa qualità non può produrre più di 100 capi da carne l'anno, no? E in questo contesto. E la carne poi viene consumata tutta in loco. Quindi, alla fine, ora mi fa ricordare, c'era un mio amico contadino di Montevarchi che mi dice sempre, no? È bello avere una natura che lavora per me al minimo di paga, come dire. Uno, insomma, si attiene alla natura, poi anche diciamo, rispetta la natura, anche la natura poi lavora per te, insomma. Quindi. Walter, come hai scelto i tuoi protagonisti e come hai iniziato a lavorare? Diciamo appunto, come avevo già accennato, io l'avevo conosciuto, insomma, naturalmente anche durante lo sviluppo del film precedente. E quindi devo dire, mi avevano, insomma, incuriosito parecchio, insomma, per raccontarsi così senza fronzoli, con quella fierezza, no? Insomma, con l'orgoglio del proprio mestiere, che dire, mi hanno sedotto e quindi è stato abbastanza naturale con iniziare lo sviluppo di questo film, insomma. Nonostante non sia stato facile entrare in relazione con loro, che comunque insomma, sono persone che si trovano meglio a comunicare con le vacche che con le persone. Però, insomma, piano piano sono riuscito, come dire, a farmi accettare e quindi ho potuto iniziare a costruire poi tutta la struttura narrativa, insomma. Walter, per quanto tempo li hai seguiti? Senti, li ho seguiti per più di 2 anni, quindi è stato abbastanza lungo il percorso, proprio perché ovviamente dovevo anche documentare durante, diciamo, lo scorrere delle stagioni, quindi e anche tutti i vari momenti del loro lavoro, che insomma è abbastanza complesso. Allora, tra pesca e allevamento, che quadro hai tracciato e qua che quadro hai visto della Maremma? Diciamo sì, che questi mutteri, insomma, operano in un contesto che occorre in questo caso è quello di Alberese, no? In Maremma, insomma, loro praticamente operano all'interno del Parco dell'Uccellina, quindi è un contesto ambientale che insomma è molto complesso e delicato. E se noi consideriamo spesso le attività agricole all'interno dei parchi, insomma, normalmente spesso succede che entrano anche in conflitto, ma in questo caso invece no, insomma, il loro sistema di produzione che è legato alla natura, anche se fosse in maniera arcaico, alla fine il sistema più innovativo e funzionale che in quel contesto lì si può avere. I butteri alla fine esprimono in pieno la loro terra. E l'idea, insomma, che diciamo, sono fatto è che la Maremma sta avendo, insomma, negli ultimi 20 anni un grande successo a livello turistico, proprio anche per il fatto che si è mantenuta più vera di altre parti. Il processo di modernità e questi gusti è avvenuto proprio in maniera più lenta e questo oggi è diventato un vantaggio e i punti che appunto esprimono in pieno la loro terra, insomma. Ho considerato che continui a parlare, a raccontare il mondo del lavoro. Volevo chiederti anche che idea ti sei fatto rispetto ai giovani, che prospettive hanno? Hai parlato anche del turismo. Diciamo, quella è una tematica legata al lavoro, nel caso dei butteri, che essendo molto complessa, essendo un lavoro che si acquisisce negli anni, diciamo che è molto difficile, insomma, è uno di quei lavori che sono a rischio di estinzione ovviamente, perché insomma le nuove generazioni sono attratte più da altre tipologie, insomma, di lavoro. È quello, lì insomma bisogna avere una grandissima passione e una predisposizione particolare con gli animali per poterlo portare avanti. Quindi sai, poi è una zona e comunque anche se la perduazione, ma appunto c'è sempre questa influenza che arriva dall'esterno, ovviamente, Allora, il tuo lavoro sarà presentato in anteprima al Biography Film Festival, poi sarà in sala dal 21. C'è un sito internet, una pagina Facebook per saperne di più? C'è la pagina Facebook proprio appunto con il nome Gli Ultimi Butteri, il nome del film, dove uno eventualmente può approfondire e condividere, diciamo, i contenuti con tutti gli altri. Allora, Walter, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto.